24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci qui alle 7:21 minuti, siamo in diretta anche oggi, cari ascoltatori. 800 24 00 24 è il numero per telefonare, 349 238 6666, vostri messaggi, la mail 24mattino@radio24.it. Di cosa parliamo nel nostro sondaggio? Parliamo, visto che è festa, visto che è l'8 dicembre, della camera che è in festa. La camera, sapete, è chiusa tutta la settimana prima del voto di fiducia. E noi vi chiediamo, secondo voi è comprensibile, giusta questa decisione, chiudere la Camera una settimana prima del voto di fiducia? Che ne pensate? Votate su radio24.it. 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan per la nostra intervista. Oggi abbiamo con noi il sindaco di Capri, Ciro Lembo. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi e ai radioascoltatori. E allora, che ha combinato? Ha combinato un casino, diciamo la verità, sindaco. La nomina del comandante dei vigili urbani a Capri, non avvenuta per concorso ma per chiamata diretta. Ha nominato lei Mari Cavellino, 30 anni, caprese, quindi di Capri. Si sono ammutinati tutto il corpo dei vigili urbani contro questa decisione, perché? Ma innanzitutto io ho applicato la legge, quindi già l'ho fatto in altra occasione, perché è previsto dalla legge, in proporzione ovviamente al numero dei dipendenti, che nel caso nostro di Capri io posso nominare un solo dirigente direttamente per il periodo legato con un concorso, quindi un incarico fiduciario per il periodo, diciamo, del mio mandato, quindi altri 3 anni. Ma la legge nessuno infatti la discute. Lei però, cioè, ci sono 18 vigili urbani, molti ambivano al posto di comandante, e lei ha detto: no, ma che concorso, ho scelto Mari Cavellino, 30 anni, perché è brava e capace. Certamente la prima cosa è che all'interno dei vigili urbani attualmente non è un problema di professionalità e di esperienza, ma è un problema di titolo di studio, perché dei 3 tenenti presenti nella pianta organica uno solo ha la laurea breve, quindi non idonea a questa incarica, altri 2 non hanno la laurea. Poi c'è un altro vigile che è stato assunto da 1 anno, quindi che ha poca esperienza e che poi c'è una laurea, questo sì, però in economia marittima. E quindi non idonei a questi, quindi innanzitutto le professionalità non ci sono, cioè non ci sono i titoli per avere questo incarico. E poi c'è un altro problema di contenzioso che noi abbiamo con i vigili per l'applicazione di alcune norme contrattuali, eccetera, per quanto riguarda straordinarie, eccetera, la domenica, e quindi siamo in causa, siamo in contenzioso, e quindi sicuramente non può scattare un rapporto fiduciario. Certo, perché sindaco lei ha scelto questa 30enne di Capri, cioè come l'ha selezionata? Come... Sì, io innanzitutto non ho fatto ovviamente non il concorso, quindi nemmeno la selezione, ho fatto solo una richiesta, un'indagine per una richiesta di curriculum che ho esaminato e che mi hanno poi portato a fare questa scelta, perché innanzitutto io ci tengo a chiarire che non accetterò mai discriminazioni né altre situazioni nei confronti di giovani, specialmente delle donne. E quindi ovviamente io ho fatto questa scelta, una scelta a termine, quindi non è un posto fisso, perché so bene che per ricevere un posto fisso statale ci vuole il concorso. Certo. Quindi questa è legato al mio mandato, è una scelta coraggiosa ma non rischiosa. Ma lei ha detto, io posso tornare indietro, certo. E ho fatto questa scelta di non voler scegliere la lotteria e le sorprese dei concorsi. No, questo sì, però le chiedo, quindi, sindaco, la protesta di tutti i vigili urbani, tutti in sciopero per questa nomina, secondo lei? Io li ho convocati per venerdì sindacati e sono sicuro e fiducioso che rientreremo tutto e ridiscuteremo anche queste problematiche legate all'applicazione del contratto. Secondo lei è una protesta anche maschilista, cioè dobbiamo essere comandati da una donna di 30 anni e che non è del nostro corpo dei vigili urbani? Sì, io mi auguro che non sia così, quindi è solo adesso, come dire, una reazione immediata, diciamo un po' isterica sicuramente, però sono convinto che, data la bravura, la fermezza della dottoressa, sono sicuro che tutto ritornerà nella normalità. Non sarà facile per la neocomandante, adesso si mette davanti ai vigili urbani. Sì. E che dirà loro e che diranno loro a lei, al comandante? Non è una bella situazione, insomma, da gestire. Certamente, certo. Ma queste scelte e queste scommesse sono quelle che si devono giocare. Noi la noia delle cose facili, a noi non ce l'avete. Lei conferma, ha ci detto ieri, la passione delle cose difficili. Ha detto ieri in un'intervista, meglio le donne, cioè lavorano, sì, sono più brave. Sì, hanno una marcia in più. Poi il professore Veronese ci ha spiegato col suo ultimo libro, ci ha spiegato il perché un mondo retto dalle donne sarebbe un mondo migliore. Oh, e quindi figurarsi il corpo dei vigili urbani a Capri. Cioè, io nel salutarla, nel ringraziarla, quanti gradi ci sono a Capri, che qui a Milano fa freddo, ci faccio un po' di video. Ah no, qui è caldo, qua abbiamo 22 gradi. 22 gradi, è impazzito. No, e poi diciamo che è bello. Come 22 gradi? No, 20, sì. 22 gradi mi prende in giro. No, 20... sì, veramente fa caldo. Sì, fa caldo. Sì. Vabbè, adesso non è uscito ancora il sole, ma a breve... Cioè, pure il sole. Anche il sole, ci auguriamo che mannaggia, sia una bella giornata di festa. Beati voi, comunque, grazie. Ci auguriamo che tutto ritorni alla normalità. Ma sì. Capri ha prodotto come al solito il suo ego mediatico, paghiamo il prezzo del mito, ma ci fa piacere. Va bene, la ringrazio, sindaco. Bene, Ciro giornata, Lembo, sindaco di Capri. Grazie, 22 gradi a Capri. Poi uno dice che non deve arrabbiarsi un pochettino. E uso un eufemismo. 24 mattino. Alle 8.33 minuti, allora, la Camera è chiusa, lo sapete, è chiusa in attesa del voto del 14 dicembre. Quello che vi chiediamo, secondo voi, se sia giusto nel nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? È inevitabile, c'è anche di qualunquismo, c'è anche un po' di demagogia, un po' di populismo, ma il 92% per ora dice ai nostri ascoltatori che votano su Radio24.it non capiamo questa cosa. La Camera chiusa, i deputati pagati, perché? Perché bisogna attendere il voto di fiducia. 800 24 00 24, se volete intervenire. Prima di iniziare il dibattito, vogliamo iniziare un po' col sorriso sulle labbra? Sentiamo. Ma poi la cosa pazzesca, sì, è che questi qua non si rendono conto che chiudono e poi se ne stanno a casa. Ma c'è gente che a dicembre lavora 24 ore su 24, i negozi aperti tutto il tempo per lavorare, e questi chiudono. Beh, è Luciana Lituzzetto, no? L'avete riconosciuto. Ma va bene tutto, per carità, va bene, però non state a casa a fare una mazza. Andate a incollare i sassi di Pompei con l'Attac. Fate qualcosa, non so, Cicchitto Straquadagno e Bondi vanno a pulire i cessi del Cotolengo con l'Anitra WC. Non so, D'Alema si mette a vangare. Casini, che figo, gli mettiamo un paio di pantaloni di pelle, fa la lap dance e tira sui soldi per la ricerca sulla SLA, per dire. No? Vabbè, e così... E così via dicendo, ci sarà anche demagogia qui, ci sarà un po' di populismo, magari poi sentiamo qualcos'altro della Lituzzetto. Intanto io voglio salutare Simona Bellini, buongiorno. Buongiorno. Lei è presidente del Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi e ha scritto una lettera che qualche giornale, l'ho vista sulla Nazione, l'ho vista ieri sul Fatto Quotidiano, ha pubblicato. Per dire che cosa, presidente? Beh, io ho fatto una proposta per questo periodo. Per questo periodo in cui i nostri parlamentari sono a riposo, ho proposto che vengano nelle nostre case, dove non c'è riposo nell'assistenza ai nostri cari, non ci sono notti e non ci sono festività, per darci una mano, soprattutto perché in questo periodo, per i noti tagli che vengono fatti nel settore, molti centri di riabilitazione chiudono e quindi noi siamo effettivamente in grosse difficoltà, perché abbiamo necessità di andare a lavorare, quindi noi non chiudono le nostre aziende. Che effetto le fa vedere? Non so se adesso ci sono anche due parlamentari che tra poco saluterò, la stanno ascoltando. Che effetto le fa vedere, se sapere della Camera chiusa 10 giorni, una settimana in attesa del voto di fiducia? Bando magari a un po' della demagogia, anche a me dà un po' fastidio l'idea così, però poi magari argomenteranno i nostri parlamentari il perché di questa decisione. No, cioè, è un effetto un po' particolare, soprattutto in considerazione del fatto che le nostre famiglie aspettano da 15 anni una legge sul prepensionamento proprio di chi assiste disabili gravi in ambito familiare. Il problema è che noi invece vorremmo vederli lavorare, perché queste leggi importantissime per un settore così delicato e così tartassato, soprattutto, escano e rispondano ai bisogni delle persone. Ai bisogni soprattutto di quelle famiglie che lavorano, che danno il massimo per l'assistenza ai propri cari, sollevando lo Stato di costi ingentissimi e soprattutto nell'invisibilità più totale. Allora, io voglio salutare due parlamentari, per l'appunto, l'onorevole Giancarlo Lehner del Popolo della Libertà, buongiorno onorevole. Buongiorno. E l'onorevole Antonio Boccuzzi del Partito Democratico, buongiorno Boccuzzi. Buongiorno, bentrovati. Allora, Lehner ha sentito, insomma, lo sfogo comunque molto composto di Simona Bellini, che appunto la lettera forse l'avrà letta anche lei, poi più articolata sui giornali, a dire: ma come? Che immagine è il Parlamento, meglio la Camera, che non lavora? Noi siamo qui 365 giorni all'anno, aspettiamo una legge da anni per l'assistenza ai disabili gravi, e che immagine dà la Camera? Allora, intanto io sono un parlamentare che ha fatto una battaglia personale e solitaria con una serie di articoli contro ogni forma di assenteismo. E infatti l'abbiamo chiamata Camera, per questo, come sa. Quindi posso parlare. Ora, certo. Però davanti a queste affermazioni io sono veramente stupito, nel senso che qui stiamo parlando non di 10 giorni, ma di 3-4 giorni in cui è chiusa, ma non perché siamo in ferie, ma perché ci sono urgenze politiche che vengono affrontate e praticate altrove. Insomma, quindi non è che siamo sulla neve oppure siamo in qualche isola a prendere il sole. Quindi, poi attenzione, stiamoci attenti a questa cultura qualunquistica per cui il parlamentare deve lavorare, il parlamentare deve fare delle buone leggi, deve fare degli ottimi emendamenti alle leggi. Guardate che questa cultura è quella che ha portato il peggio alla storia umana, nel senso che il fascismo nasce con l'accusa al Parlamento di essere un luogo dove c'è corruzione, si perde tempo, non si lavora. Il comunismo idem, quando subito dopo il noto Ottobre Rosso, sì, c'è un'elezione, l'unica, che elegge in Russia un'assemblea costituente. Però non potrà tacciare la signora, la presidentessa, no, o chi dice queste accuse. Adesso arrivo anche alla signora, perché se lei chiede delle buone leggi, e la chiede da anni, siamo tutti d'accordo, naturalmente. Sempre che naturalmente si abbiano i fondi, che poi attenzione, in questo momento c'è un gioco anch'esso, insomma, assolutamente sbagliato, per cui tutti chiedono tutto, anche se poi tutti sanno che non si può chiedere in questo momento. A questo punto dico, facciamo ripartire il paese, dopodiché, attenzione, cercheremo di andare avendo i fondi, perché senza fondi possiamo parlare, ma siamo fermi, quello che io lei respinge, però ci torniamo un attimo, perché voglio sentire un attimo che punto, ne pensa Boccuzzi. In breve, il punto è questo. Allora, la libertà, attenzione, si celebra avendo una cornice liberal democratica, e cioè il Parlamento, con tutti i suoi difetti. Sì. E il parlamentarismo va rispettato, non può essere oggetto continuamente. Si dice respinge questa cultura che vede molto molto qualunquista e demagogica. Cioè l'idea che il parlamentare debba star lì a lavorare, se non sta lì a pigiare il bottone, non lavora, è un fannullone. Aveva detto che era meglio che andasse a lavorare sui campi. Chi è che l'ha detto? Non ho capito. Chi l'ha... Pol Pot. Ah, Pol Pot. Accidenti. La rivoluzione culturale. Vabbè, non so, tra poco le risponderà ovviamente Simona Bellini. Prima però vorrei da Antonio Boccuzzi del Partito Democratico. Sappiamo anche la sua storia, la storia di Boccuzzi, è un operaio della ThyssenKrupp. Una persona, non vorrei fare anch'io il qualunquismo, Boccuzzi, però le chiedo: era abituato a lavorare prima e abituato a lavorare meno ora, oppure poi Lehner si offende o si offende anche lei da parlamentare? Assunto il fatto che ero abituato a lavorare prima, e in qualche maniera io sono ancora abituato a lavorare adesso. Rispetto a quello che sosteneva Lehner, anzi tra le altre cose, visto che ci sono alcune iniziative, come diceva, che conduce in solitaria per far sì che i parlamentari lavorino di più, e in qualche maniera, cioè, per combattere e affrontare il problema dell'assenteismo, sono pronto a condividerle queste iniziative assolutamente, e sono convinto che anche molti parlamentari saranno come dire, di questa idea è pronti a condividere queste, queste proposte. Allo stesso tempo credo che ci sia un grave problema, una decadenza del, di quella, quella, l'immagine dei, dei parlamentari, dovuta al fatto che questa non è la prima volta che la Camera rimane chiusa. Tra fine ottobre e la prima settimana di novembre nuovamente c'è stato un periodo in cui la Camera è rimasta chiusa, sì, e non si è lavorato, sì, in quel caso perché mancavano sostanzialmente i soldi per coprire alcune riforme, tra cui la riforma universitaria. Mm-hmm. Allo stesso tempo in questa settimana in realtà ci sono solo soltanto motivazioni politiche che hanno impedito che si potesse andare a lavorare e non solo a pigiare un tasto, ma in questo caso c'erano due mozioni da votare, tra cui la mozione di sfiducia all'onorevole Bondi, cioè, che è stata rinviata. La maggioranza, con il beneplacito del presidente Fini, ha deciso invece di tenere la Camera chiusa. Tra l'altro io voglio leggere su Repubblica un titolo dei giorni scorsi, quando è apparsa questa notizia della chiusura di una settimana: in un anno deputati in aula solo 136 volte, in un anno. Certo, poi ci sono anche le commissioni che non vengono mai citate, ma si lavora molto anche in commissione. Spesso chiamiamo i parlamentari, ci dicono alle 8:30 non posso intervenire perché devo stare, perché sono devo presenziare in commissione. Prima delle informazioni sul traffico, Simona Bellini, che voglio ricordare, presidente del Coordinamento Nazionale Famiglia di Disabili Gravi e Gravissimi, risponda che ne pensa. Insomma, l'onorevole Lenner dice attenzione anche a questo qualunquismo, insomma, a dire si vada a lavorare come se il parlamentare non debba essere rispettato nella sua forma istituzionale in quello che fa. Cosa vuole replicare? Sinceramente, anzi, direi che la nostra era semplicemente una provocazione. Mi pare ovvio che non ci scandalizziamo per la chiusura di 4 giorni della Camera dei Deputati, ci scandalizziamo che non ci sia l'attenzione alle nostre situazioni. Il problema di fondo è questo, è semplicemente questo. Chiediamo a chiare lettere questa legge che aspetta da 15 anni, che tutti dicono essere un atto dovuto, e credo che il discorso della mancanza di fondi non regga più dopo 15 anni. Anche perché dice appunto 15 anni fa, non, forse è la situazione di crisi adesso, ma da 15 anni c'è questa richiesta? Ma da 15 anni, perché noi sappiamo che per le emergenze, e questa è un'emergenza sociale che non può più attendere, per le emergenze i fondi si trovano. Allora, se si lavora in un certo con attenzione riguardo queste situazioni che pochi conoscono, perché la disabilità grave non è quella che pensiamo noi, la disabilità grave è chiusa nelle pareti familiari, la disabilità grave è quella di coloro che non possono autorappresentarsi e che quindi devono vivere a doppio filo con un'altra persona. La disabilità grave non è quella della carrozzina, è quella della persona che non sa nemmeno che è viva. Quindi ricordiamo che da 15, no, ma certo, ricordiamo da 15 anni voi chiedete una legge sul prepensionamento di chi assiste disabili gravi in ambito familiare, perché lo deve fare 24 ore su 24, 365 giorni all'anno e 366 quando è bisesto. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Sulla fanga in Veneto, ne voglio vedere altri 20 che vanno a tirare sulle macerie all'Aquila. Ma perché questi qua prendono lo stipendio, lavoreranno una settimana a dicembre, magari prendono pure la tredicesima, ma capisci? Capisco. Che se noi gliela lasciamo passare questa volta, poi a gennaio magari ti dicono che ci sono i saldi e devono chiudere, e a febbraio c'è la disinfestazione dei pidocchi, e a marzo le pulizie pasquali, ma capisci che poi non ne veniamo più a capo. Io li voglio vedere tutti all'inferno, che spengono le fiamme col culo. Carlo da Milano, buongiorno. Buongiorno. Io sono un tassista milanese che lavora 26 giorni al mese. Sì. E non penso che questa cosa qui dei 4 giorni faccia molta differenza, perché se ci agganciamo alla signora di prima, se in 15 anni non hanno fatto una legge, non vedo in questi 4 giorni che cosa riescono a fare. Però ritengo che sia una cosa non giusta che il nostro Parlamento si prenda le vacanze, se la prenda comoda. Sì, no, non è però, Carlo, qua il rischio di cadere un po' dalla demagogia c'è. Non è che le spiego, non è che si sono presi le vacanze, cioè dico andiamo in vacanza. C'è un problema politico che poi opinabile la chiusura o no, perché l'opposizione diceva è sbagliato, la maggioranza l'ha chiesta e l'ha ottenuta, però non è che c'è, cioè, perché così ce ne andiamo tutti in settimana bianca, ecco. Vorrei tradurla così, Carlo. Lei invece la vede proprio, come dire, ci diamo una bella settimana di vacanza. Insomma, certo, capisco che dia fastidio, no? Io non la prendo come settimana di vacanza, prendo questo discorso come una lentezza ormai atavica di questa gente che per fare qualsiasi cosa ci mette delle ere glaciali. Perché una legge di 15 anni, un'altra cosa, però quando hanno bisogno di fare le cose per loro, aumenti di stipendio e altre cose, alzano la mano tutti insieme, a prescindere da che partito siano, e fanno tutti in fretta, ci mettono 30 secondi. Allora, no, grazie Carlo, tassista che sta lavorando ovviamente, quindi anche oggi, no? È uno dei 20... Oggi lavoro. È uno dei 26 giorni, va bene, la ringrazio. Onorevole Lehner, ecco qua, vabbè, insomma, abbiamo sentito anche un po' la litizzetta per ridere, avrà riso anche lei. Su. Va bene, ma dai, dai. Perché se lei ma è satira, però. I cinesi degli anni 60, sono, secondo me, anche litizzetto fa un plagio. Perché attenzione, nella rivoluzione culturale cinese che ha causato milioni di assassinati, esattamente c'erano le stesse frasi. Ma no, ma Lehner, ma non dica che siamo qua a fare Mao Zedong. No. Aspetta, Littizzetto. Sì, ma neanche la Littizzetto. A questo amico che insomma lavora. Sì. Intanto, allora, informiamo meglio la gente. Il Parlamento quest'anno ha votato per diminuire il nostro stipendio e non per aumentarlo. Uno. Due, io sono in macchina e sto andando in Cilento a incontrare coloro che sfortunatamente per loro forse mi hanno eletto, e quindi a fare politica non sono affatto in vacanza, insomma. Sul territorio, come si suol dire, la politica sul territorio, anche questo. Cioè. Perché c'è anche questo, non è che c'è soltanto l'aula, le commissioni. Lei onorevole Lehner, però mi fornisce un assist allora, per Bellini, sì, no, però le dico, lei mi fornisce un assist per la battuta a dire ma che ci va a fare in Cilento, tanto siete un Parlamento di nominati, non c'è la cioè anche se lei non si fa vedere. Ma c'è un rapporto la gente che è fondamentale, perché là è là che uno scopre quelli che sono i veri bisogni, perché insomma voglio dire sono sicuro che qui agli amici cilentani non gliene frega niente per esempio di Assange, sì, mentre importa non so il posto, il futuro. Invece la signora Bellini che vuole dire? Per la signora Bellini voglio dire che se invece il problema è quello che lei ha posto, ma certamente io sono con lei, però attenzione, io credo che bisognerà studiare se è giusta quella soluzione che lei offre, oppure se forse, non lo so, adesso vado così. C'è il prepensionamento? Oppure? Oppure a avere più istituti che si occupano dei casi molto gravi. Io stesso, quando ero non parlamentare ma giornalista, cioè quando lavoravo secondo voi, io ho fatto visita spesso, mi ricordo a Roma c'è un istituto accanto al Forlanini, sì, no? Che ospita per l'appunto casi molto gravi, eccetera. Io andavo lì proprio per parlare con i genitori, eccetera. Dobbiamo parlarne, ecco, io sono contento se l'assist è questo. No, ma infatti tema e andiamo a cercare una soluzione che sia equa. Occupiamoci finalmente del tema dopo 15 anni, non so se la Presidente Bellini l'ha sentito tante volte, immagino di sì, Presidente Bellini. Occupiamoci del tema, però lei ha detto un po', è stata una provocazione forse per smuovere le acque, qualcosa magari si sta muovendo, no? Ma si sta no. Posso? Sì, certo. Si sta muovendo da 15 anni, ma io sono scandalizzato da quello che ha detto l'onorevole. Gli istituti? Ma questi sono i nostri figli. Noi non abbiamo nessuna intenzione di metterli in istituto. Noi vogliamo curarci di loro. Ma stiamo scherzando? Metterli in istituto significherebbe destinarli a morte certa. Noi vogliamo averli accanto, vogliamo curarci di loro, li abbiamo messi al mondo. Non abbiamo nessuna intenzione di sentir parlare di istituto, di istituzionalizzazione. Vogliamo curarci di loro e avere la possibilità di farlo. Allora, quando si parla di trovare delle risposte, di ragionare molto sulle risposte, io vi ricordo che si ragiona su questo da 15 anni e che il ministro Turco nel 1997, durante la giornata mondiale della disabilità, asserì che era un atto dovuto che si doveva fare al più presto. 97. 97. Sono passati 13 anni. 97. Io sono un po' basito, signora, che sono molto contento di averle dato la parola e di averla invitata, la ringrazio di questo invito, ma insomma, perché poi queste cose richiamano ai doveri della politica, quella concreta. Onorevole Boccuzzi, mi faccia fare, visto che abbiamo 2 minuti per concludere, una domanda anche sull'attualità politica e sul 14 dicembre, perché... si vocifera molto di SUC, terminologie, mercato, compravendita di parlamentari, anche molti che, non ottenendo, cadendo il governo, il vitalizio, vorrebbero dall'opposizione mantenere in piedi questa legislatura. Lei, per esempio, il vitalizio non lo otterrebbe se cadesse il governo, nonostante ciò? Ma io sono assolutamente sereno. Io credo che in questo momento l'unica cosa davvero necessaria è che Berlusconi non sia più il Premier. Allo stesso tempo ritengo sia indispensabile una riforma elettorale che dia la possibilità agli elettori di scegliere direttamente i propri parlamentari, in modo che non saremmo più nominati, saremmo davvero scelti e rappresenteremmo in maniera completamente diversa, a mio avviso, chi ci ha dato il loro consenso. Credo poi anche questo discorso di compravendita di parlamentari, eccetera, che si legge sui giornali, anche questo contribuisca in maniera pesante a dare un giudizio generalizzato, un certo, tra l'altro, su chi... Sì, sulla classe politica o l'attuale classe parlamentare. Io qui mi devo fermare e ringrazio davvero tutti, l'onorevole Giancarlo Lenner del Popolo della Libertà, l'onorevole Antonio Boccuzzi del Partito Democratico, così come Simona Bellini, che presiede il coordinamento nazionale famiglie di disabili gravi e gravissimi. Signora, la richiameremo se, per quello che potremo fare, anche se, insomma, se dal 97 ministri parlamentari hanno detto che tutto è urgente da fare al più presto e siamo ancora fermi al palo, insomma, non so quanto potremo fare noi, ecco. Intanto però la ringrazio, con Antonella Migliaccio e Alessandro Longoni in redazione e Peter Bescapè, la sua penna d'alpino che ancora non ho visto, in regia. Che dire, diamo la linea a Oscar Giannino, anche lui in diretta. Noi ci troviamo domani 7:20.